Io non ti lascio. Leggo nella Bibbia, nel libro di Ruth, capitolo 1, versetti 16 e 17. Ruth rispose: Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io, e dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore se altra cosa che la morte mi separerà da te. Naomi era una donna distrutta dal dolore. Dopo aver perso il marito e i figli era rimasta sola e pensava che Dio l'avesse giudicata e resa infelice. Non riusciva a vedere una via d'uscita ai propri problemi. Ma vicino a lei c'è un'altra donna, sua nuora Ruth, una straniera, una moabita, anch'essa ormai vedova. Naomi non si era resa conto di quale tesoro Dio le avesse messo a fianco. Ma questa frase di Ruth ci fa vedere di che pasta era fatta questa ragazza. Naomi sarebbe tornata a rivedere Dio come un padre amorevole e non come un giudice, proprio attraverso Ruth. Ruth non si limitò a pronunciare parole frettolose per consolare la suocera, ma le mostrò l'amore di Dio in maniera pratica. L'empatia di Ruth con Naomi fu quasi totale. Sarebbe stata con lei ovunque. Avrebbe rinunciato al proprio popolo per appartenere al popolo giudaico. Avrebbe lasciato i suoi idoli per riporre la sua fede nello stesso Dio di Naomi. Sarebbe stata con la suocera fino alla morte e là sarebbe rimasta, anche dopo la morte della suocera, per essere sepolta con lei. E chiamò proprio il Signore come testimone di questa sua promessa. Siamo abituati a pensare al rapporto nuora-suocera come un rapporto conflittuale ed in effetti spesso è così. È difficile non commuoversi, pensando invece a ciò che Ruth era pronta a fare per la suocera, trattandola meglio di una madre. Le parole di Ruth non sono un semplice enunciato teologico con il quale accettava il Dio di Naomi, ma sono parole che dimostrano una trasformazione interiore. Nel momento in cui dichiarò la sua fede nel Dio di Israele, la dimostrò in maniera pratica nel suo solenne impegno con Naomi. «Io non ti lascio, rimarrò sempre con te». Mentre Naomi nel suo dolore aveva tentato di allontanare Ruth e rimandarla al suo paese, Ruth, sopportando le parole amare della suocera, decise di ascoltare la voce di Dio che le indicava il modo più giusto di aiutarla. La giovane moabita Ruth poteva rifarsi una vita in Moab, ma preferì rinunciare a se stessa per aiutare sua suocera. Dio non operò un miracolo eclatante per consolare la vedova Naomi, ma le diede l'amore di Ruth. Dio manifesta se stesso a chi soffre proprio attraverso altri esseri umani che si lasciano utilizzare come strumenti nelle sue mani. Quando soffriamo, non abbiamo solo bisogno di qualcuno che ci ricordi che Dio ci ama, ma di qualcuno che ci mostri l'amore di Dio per noi. Ruth, nei confronti di Naomi, ha fatto proprio questo. Abbiamo tanto da imparare da questa giovane donna moabita.